Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Inizia Il riposo del guerriero che come sempre vi accompagnerà fino a mezzogiorno. Oggi siamo alle soglie di agosto, siamo pronti quindi per cercare di rilassarci un po', al di là del fatto che si abbiano meno soldi per viaggiare, perché cercheremo di scoprire anche le cose da visitare vicine a noi, perché ci sono molti luoghi magari che sono molto vicini a noi e che ancora non conosciamo. Questo è un difetto di molti italiani, continua a esserlo, forse però vale anche per gli altri paesi, ma ne parliamo tra pochissimo. Voglio intanto ricordarvi che alle 11.30 ci sarà il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa ancora una volta fino a 1000 euro da spendere in libri digitali o cartacei, ammesso che riusciate a risolvere il mistero ascoltando i nostri indizi. Più indizi ascolterete, più il premio, come al solito, si abbasserà. La risposta può essere o una delle notizie della settimana oppure un personaggio, qualcosa di molto conosciuto. E il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. Riconosciuto forse Claudio Baglioni, questo era un po' di più. Il primo indizio: si gioca alle 11.30, il numero verde per prenotarvi anche subito 800 24 00 24. Oggi ci sono i compiti per voi, i compiti per le vacanze. Lo dico perché le vacanze o comunque la pausa estiva vale un pochino come il primo dell'anno, no? Ci sono i buoni propositi, sono diversi, però ci sono. Di solito quelli estivi sono rimettersi in forma, seguire una dieta, cercare di dedicarsi allo sport, poi non si fanno magari mai o si fanno male, però ci si chiede a se stessi di migliorarsi ancora una volta. Chissà che non ci si riesca a farlo davvero con le indicazioni che cercheremo di darvi oggi, anche con un ospite in studio. E poi vorrei sapere quali sono i vostri compiti per le vacanze, quelli che vi siete dati o avete imposto magari alla vostra famiglia, della serie durante le vacanze cucini tu, cioè all'altra persona che compone la famiglia, rispetto a chi invece lo fa tutto l'anno. Questo potrebbe essere un compito per le vacanze da dare a qualcun altro. Vorrei sapere quali sono i vostri. C'è la pagina Facebook del Riposo del Guerriero oppure i vostri SMS 349 238 6666. Compiti per le vacanze quindi assolutamente senza quaderni, perché non sono compiti in classe, anzi ne siamo fuori. E per cominciare, Giuni Russo. Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le proprio da lontano gli ombroni, proprio lontani, nel senso che vuol dire che siamo proprio in mare aperto, perché a volte purtroppo sulle nostre coste, in alcuni casi, non vedi neanche il mare, cioè vedi solo gli ombrelloni, dici ma c'è il mare, sì, molto più avanti, e quindi insomma questa è un'immagine che non amo molto. Fausta Fibier, benvenuta, buona domenica. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Grazie a te di essere qui. Fausta è caporedattore del mensile Viaggi del Sole, Viaggi 24, per parlare di viaggi, però cerchiamo di farlo al riposo del guerriero, quindi in un modo un po' diverso dal solito, cerchiamo altre vie per viaggiare. Perché stavamo così chiacchierando fuori onda mentre Giuni Russo cantava del fatto che non è tanto importante il luogo, ma le sensazioni, sì, che qualunque luogo riesce a darti. Sicuramente. Anche dunque, io volevo fare una piccola premessa velocissima. L'occasione sono le Olimpiadi, dove, sì, abbiamo visto tanti paesi. Ecco, una riflessione sul fatto che tanti paesi vuol dire la pace, vuol dire poter andare in tutti questi paesi, cosa che oggi non è possibile. Ci sono luoghi meravigliosi che oggi sono off-limits per tutti, ed è un peccato che poi tante cose siano andate distrutte e non le possiamo più vedere. Io penso al Mali, che è un paese meraviglioso dell'Africa, Timbuktu, Jenne con la moschea, penso tutta una parte di deserto, penso alla Siria, che è un paese meraviglioso dove noi siamo nati lì, perché la nostra scrittura è nata a Ebla. Insomma, ci sono dei luoghi meravigliosi che a causa di guerre e di problemi vari non possiamo più frequentare. Allora, le Olimpiadi sono belle perché ci fanno vedere tanti paesi, e in tutti questi paesi noi vorremmo e potremmo andare. Ecco, questa è la premessa. Tutto il mondo va amato, vissuto e conosciuto. Poi ognuno in ogni parte del paese e in ogni parte del mondo trova quello che cerca dentro se stesso e fuori se stesso. L'arte, la cultura, la natura, il mare, la montagna. Ognuno è fatto a modo proprio e ognuno ha il diritto di cercare il proprio luogo in tutti i luoghi del mondo. Questa è, secondo me, così la filosofia del viaggio, come la intendo io, come penso la intendano tante persone. Ma viaggiare, no? Comunque sicuramente anche aprire la mente, perché sì, le cose si possono capire e conoscere soltanto viaggiando e spostandosi. Assolutamente. È anche vero che viaggiare costa da tanti punti, vero, di vista, non è solo un fatto economico, no, è un fatto anche di tempo, per esempio, certo, perché oggi si possono organizzare anche viaggi a distanze lontane e a costi ridotti, perché ci sono tanti sistemi, certo, per farlo, grazie alla rete, poi sì, è possibile, sì, condividere, ma ci vuole il tempo. Ci vuole il tempo. E poi una cosa volevo dire, passare dalla vacanza al viaggio. Cioè, sono cose molto diverse. Esatto, nel senso, va benissimo la vacanza, assolutamente, ci sono le vacanze fatte per riposare, però forse dovremmo un po' uscire dal meccanismo che dice l'estate è la vacanza, il resto dell'anno no, non è così, nel senso che magari invece di un mese si possono fare 10 giorni, 15 giorni, e poi spalmare, diciamo così, le vacanze, i viaggi durante l'anno, qualche giorno, qualche weekend, una settimana, e sono l'occasione per mescolare la nostra vita con la conoscenza del viaggio e il riposo, no? Ecco, proprio di conoscenza volevo chiederti, ma lo faccio appena dopo gli aggiornamenti sul traffico. Ecco Fausta, parlavamo di viaggi e di conoscenza, no? Allora ti chiedevo, secondo te leggere di viaggi, certo non ha la stessa forza, ma è altrettanto importante per chi non potesse permettersi il viaggio vero e proprio, no? Sì, beh, certo, noi siamo dotati di tanti sensi, la vista, l'intelletto, l'udito, eccetera. Sicuramente è anche vero che nulla può sostituire l'esperienza. Chiaro, però non sempre ci si riesce a permettere, proprio perché tu sei caporedattore, sì, di un mensile, quindi scrivi di viaggi, certo, e scrivere di viaggi significa tante cose, perché, sì, non è una mera descrizione di un luogo, no, bisogna, no, cercare di raccontare un'emozione. Certamente. Per riuscirla a trasferire. Beh, sai, ci sono tanti, tanti modi di scrivere di viaggio. Io prima di lavorare ai Viaggi del Sole ho lavorato 20 anni in un mensile, si chiamava Gulliver, che parlava, sì, solo di viaggi, e facendo il mestiere dell'inviata, quindi andando in un luogo e scrivendo di quel luogo. Io credo che non bisogna esagerare, nel senso che devi mischiare la tua esperienza personale, le tue impressioni personali, facendo chiaramente intendere che sono impressioni personali, sì, però con una serie di informazioni. Ecco, ridendo, mio marito e mia figlia, con cui ho viaggiato tantissimo, io dicono che io viaggio sempre con un libro in mano, no? Perché per me, però questo è un mio difetto, io devo prima conoscere la storia di un paese, allora a quel punto quando penso, e non è vero, di sapere tutto, mi godo il panorama. Però questo è un problema di Fausta, ci sono persone che vanno nei luoghi e non sanno neanche dove sono. Beh, no? Come, scusami il parallelismo, anche se sembra stupido, ma è come al cinema, chi vuol leggere la sinossi di un film, certo, chi invece non ne vuole sapere assolutamente niente, si lascia trasportare da quello che il film gli racconterà. Perché proprio non vuole con noi, amici che non vogliono conoscere minimamente neanche il genere, semplicemente si fanno trasportare... Vanno Sai, al cinema. Penso ecco. che il discorso sia anche legato al fatto che se tu poi ne devi raccontare, devi sapere è meglio qualcosa, altrimenti di più. Se uno viaggia così, magari va bene anche così. Certo che i luoghi sono talmente diversi che come fai a andare, è vero, puoi andare a Venezia e non sapere nulla di Venezia, però insomma un minimo, ecco. Beh, cominci a conoscere quando sei lì. Sì, è vero. Guardi questa cosa sull'acqua e dici ma esiste veramente? Perché ogni volta è un colpo al cuore, sì. Venezia straordinario, poi comincia certo, a conoscere. Sì, sì, ma poi... Può arrivare anche, ecco, dopo. Sì, sì, io ripeto, ci sono modi diversi di assorbire e di godere un luogo. Sicuramente io, nonostante dica che leggo tutto, voglio sapere tutto, poi in realtà sedersi sulla riva, che so, del Niger o del Rio delle Amazzoni e stare lì e godersi la gente che passa, stare lì un'ora, non è una roba intellettuale, no? È una cosa che uno vive di cuore, di vista, di pancia anche. Sì. E quindi il viaggio è questo. Il viaggio è anche immergersi in un'atmosfera che è diversa dalla tua. Ecco, la diversità fa parte del viaggio. Io non starei tanto nemmeno a fare la distinzione turisti viaggiatori, che ho sempre trovato pretestuosa. Siamo tutti turisti, siamo tutti viaggiatori, e quindi è giusto che ognuno abbia un proprio modo di viaggiare, e soprattutto è giusto che a una persona piacciono dei luoghi e invece non piacciono degli altri, sì, no? Perché appunto è una questione di pancia, certo, anche quindi sì, di emozione, sì, sì, sì. Ecco, tra l'altro oggi, ecco, non pensate che non parleremo soltanto di viaggi, ovviamente parleremo di tante cose che riguardano questo momento di pausa e che ci auguriamo ci possa essere per tutti o per la maggior parte di voi, però cercheremo di restare anche molto in Italia, ovviamente, sì, proprio in questo momento anche di difficoltà economica molti non potranno godersi le vacanze lontani, magari neanche vicini, però quindi cercheremo di scoprire le cose che sono anche vicino a noi e non lo sapevamo, no? Perché ci sono molti posti, però cominciamo da lontano in qualche modo. Miriam Giovanzana, buona domenica. Buona domenica a voi. Miriam Giovanzana, insieme ad Alfonso Curatolo, ha pubblicato un volume, pubblicato da Terre di Mezzo, intitolato Guida al Cammino di Santiago de Compostela. Un cammino di oltre 800 chilometri dai Pirenei a Finisterre, raccontato da chi il cammino l'ha percorso. Miriam. Sì, esatto. In qualche misura questo è un cammino straordinario che sta lì da molti secoli, ma che era poi stato un po' dimenticato, soprattutto in epoca recente. E attorno al 2000 è stato riscoperto anche per quanto riguarda i camminatori italiani, anzi i pellegrini italiani. E quindi con Alfonso in tempi diversi abbiamo incominciato a percorrere questo cammino, a riscoprirlo e a raccontarlo, in qualche misura a rirenderlo ripercorribile anche per alcune migliaia di persone che ogni anno partono zaino in spalla dall'Italia e percorrono in quasi un mese di tempo questo lungo itinerario storico e di fede. Ecco, diciamo subito che non è necessario percorrere ovviamente tutti gli 800 chilometri, è possibile percorrerne anche meno. Il libro infatti è diviso in tappe, proprio come se voi steste per così incamminarvi giustamente per Santiago de Compostela. E diciamo che la Compostela si riesce a ottenere, ammesso che facciate 100 chilometri, dico bene Miriam? Sì, per la precisione degli ultimi 100 chilometri, quindi non qualsiasi tratto del cammino, ma gli ultimi 100, che in realtà forse sono i meno affascinanti oggi in questi nostri anni, perché sono appunto quelli più affollati. Sì. Il senso del cammino in questo caso, che può essere uno spazio davvero di tempo più o meno lungo, questo forse non è così importante, ma insomma non è neanche lo spazio di un weekend, il tempo che viene trascorso in una dimensione diversa rispetto a quella quotidiana, facendo anche l'esperienza dell'ospitalità gratuita e della sobrietà da un altro lato, deve essere un tempo in qualche misura significativo, quindi diciamo almeno 5-6 giorni, una settimana, ecco. Poi effettivamente c'è questa possibilità di avere anche un attestato di quello che un tempo era l'avvenuto pellegrinaggio, e adesso per convenzione questo attestato si rilascia a chi fa gli ultimi 100 chilometri. Il consiglio forse è quello di non essere così attenti a questo piccolo documento che poi viene rilasciato, che ha un suo significato, ma invece di scegliere le tappe, l'itinerario magari anche meno frequentato, ma che offre ancora le suggestioni più profonde. Ecco Miriam, io volevo chiederti intanto come ci si prepara al cammino, nel senso come le prime cose che bisogna pensare di fare, cioè come ci si allena, che tipo di allenamento ci vuole e quanto tempo minimo ci vuole per iniziare il percorso. Allora, diciamo, il percorso intanto è adatto, non è un percorso di montagna, è un percorso vario, appunto su 800 chilometri si incontrano colline, si incontrano i Pirenei all'inizio del cammino tra Francia e Spagna, si incontrano le Mesetas, quindi questi grandi altipiani anche quasi desertici, però di fatto è un cammino che è alla portata di tutti, e sul cammino noi abbiamo incontrato bambini, famiglie, in alcuni casi, ma anche diverse persone anziane, e quindi è alla portata di praticamente di tutti, è davvero... questa è una delle caratteristiche di questo percorso. Come ci si prepara? Intanto camminare è una delle attività umane più semplici, quindi intanto camminando. Mi ricordo che nella prima partenza semplicemente avevo usato l'accortezza di andare per alcune settimane prima di partire, per un mese prima di partire, a piedi al lavoro, facendo alcuni chilometri appunto a piedi, e magari con uno zaino in cui mettevo delle cose, magari anche qualche libro in più, proprio per capire il peso, certo, esatto, per sostenere il peso, allenare sì. Un po' il corpo. Però in realtà l'allenamento vero avviene una volta partiti, e forse c'è prima un allenamento dell'anima che non del corpo. Si fa l'esperienza sul cammino che ciò che ti sostiene, ciò che ti conduce poi di tappa in tappa è sicuramente la condizione del corpo, ma non solo, sono proprio le motivazioni, i desideri, gli incontri che fai sul cammino. C'è un detto che oggi è sicuramente molto vero: sul cammino non sei mai da solo, anche se parti da solo. E quindi poi anche gli incontri che fai con la storia, con appunto la storia stessa del cammino, l'arte, ma tanti viaggiatori e tanti pellegrini che poi incontri, sono parte del sostegno e dell'allenamento giorno per giorno. Quanto tempo consiglia al minimo di avere a disposizione? Anche per non percorrerlo tutto, ma per renderlo interessante. Credo che l'esperienza iniziale possa anche essere di una settimana. Diciamo che l'ideale potrebbe essere almeno di 2 settimane, una quindicina di giorni, e poi sono quasi sicura che il desiderio poi è quello di ripetere l'esperienza. In genere chi parte anche per un piccolo periodo poi fa quel tratto di cammino e lo fa con in mano un documento che si rifà, un documento anche qua antico, quello che una volta era la lettera di presentazione di vescovi o di amici, sì. Per poi far aprire le porte dei conventi, in particolare delle parrocchie, proprio per l'ospitalità gratuita. Oggi c'è la credenziale, che appunto ha lo stesso significato, è il vero documento del pellegrino, ed è una piccola carta in cui sera per sera, soprattutto nei rifugi dove ci si ferma per dormire, viene apposto il timbro, il sello, e che quindi documenta le tappe che è un po' come succede nei rifugi in montagna, esatto, no? Succede la stessa cosa. Ed è il vero, ancora di più rispetto alla Compostela, è il vero documento, il vero ricordo dell'avvenuto cammino, dell'avvenuto pellegrinaggio, ed è un documento caro, insomma, che si ripone fra i tanti ricordi. E c'è molta gente che ormai fa il cammino una settimana, 10 giorni per per anno e quindi poi lo completa nel tempo, o viceversa, poi c'è chi ha fatto il cammino principale verso Santiago, che è appunto quello che ricordavi, dai Pirenei verso Finisterre, verso Santiago e poi Finisterre, ma ci sono cammini che partono dal sud della Spagna, che partono dal Portogallo, che ripercorrono la costa nord della Spagna, e quindi poi l'esperienza sul cammino principale, che è chiamato il cammino francese perché appunto arriva dalla Francia, anche altri itinerari che possono... Certo, altre partenze, ovviamente. Esatto. Grazie Miriam, anche per l'esperienza che in qualche modo ci hai raccontato, che ci hai trasmesso, perché poi fa venire voglia di percorrerlo. Guida al cammino di Santiago de Compostela, per chi volesse percorrere, una guida fatta, devo dire, anche molto bene. Siete stati molto bravi. Grazie, ciao Miriam. Ciao, buongiorno. Buona domenica. Ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo a parlare dei compiti per le vacanze. Guardavo Fausta Fibier mentre raccontavamo del cammino di Santiago de Compostela, che lei non ha fatto, no. Però mi stavo illuminando gli occhi, sì. Immaginando. Bisogna camminare. No, mi piacerebbe. Ma sei una camminatrice, sì, tu? Nasci però, da lì? Sì, sì, io nasco dal Trentino, quindi... Però insomma c'è un periodo per tutte le cose, forse arriverà anche quello, non lo so, non metto limiti in nessun modo e ammiro molto chi lo fa perché ne conosco tante persone, credo sia un'esperienza oltre che diciamo fisica, sia un'esperienza spirituale bellissima anche di contatto con la gente. E poi è quello, no? Che si diceva fin dall'inizio, il viaggio nel vero senso, certo, della parola. Ognuno fa quello che sente di fare. Parliamo del Mediterraneo. Come no? Allora, noi intendo come Viaggi del Sole, siamo in edicola questo mese con un numero che si intitola Mediterraneo, le 30 isole più belle. Allora, volevo innanzitutto dire che è stato difficilissimo scegliere queste 30 isole, perché sono molte di più. Potremmo fare un sacco di numeri sul Mediterraneo. Abbiamo scelto quelle meno conosciute oppure quelle conosciute, tipo la Corsica oppure la Sicilia. E su ognuno di questi angoli abbiamo scelto i posti meno scontati, meno conosciuti. Allora, l'obiettivo era quello di dire: ma abbiamo il Mediterraneo, la vacanza può essere facile, a buon prezzo e vicina. Prima sentivo il traffico, sì. le code che ci sono per andare in Slovenia e in Croazia. Ecco, la Croazia e la Slovenia sono una scoperta, tra virgolette, recente degli italiani, un luogo che costa poco, che ha il mare bellissimo, eccetera. Noi, in tutte le isole della Croazia, la Dalmazia, eccetera, sul questo numero dei Viaggi del Sole abbiamo scelto Hvar. A me ha colpito perché, nonostante sia andata spesso in Croazia, Hvar è un'isola bellissima che ha un centro storico che risale al 400, 500 e vanta 2700 ore di sole all'anno, cioè c'è sempre il sole. È un posto vicino all'Italia perché ci si arriva col traghetto tranquillamente, ci offre tante possibilità dalle case in affitto, ci sono anche degli alberghi, adesso sono stati ristrutturati perché poi in maniera un po' così superficiale si diceva sempre ma la Croazia non ha alberghi belli eccetera, adesso non è più così, ci sono. Quindi la Croazia, Hvar in questo caso, può essere un'alternativa, può essere una scelta. Ma poi passiamo dall'altra parte, abbiamo scelto la Sicilia. Della Sicilia abbiamo scelto le riserve. Ci sono delle riserve naturali bellissime che consentono di vedere, non vedere gli ombrelloni, ma di vedere il mare, no? Noi l'abbiamo titolato riserve di bellezza. Sono queste aree protette, si va da Capopassero fino a Scopello. E ovviamente tutto intorno c'è la Sicilia quella degli artistica, del cibo, del vino, c'è tutto. Stesso discorso la Corsica, stesso discorso Minorca, per esempio, abbiamo scelto che se si vuole un po' più a parte rispetto alle altre Baleari, quindi Ibiza, Formentera, eccetera. Abbiamo anche qui fatto un itinerario tutto per riserve, indicando poi nei pressi dove dormire, dove mangiare, eccetera. Quindi volendo, una persona può dire dove vado quest'anno nel Mediterraneo e qui ha una scelta assolutamente infinita. Questo è quanto, insomma, quello che si diceva prima è vero, la vacanza oggi è difficile perché costa, perché magari si ha poco tempo, però anche con poco tempo si possono trovare tanti spunti. Una cosa che mi ha incuriosito, per esempio, nelle isole Pontine a Ponza, Era un po' considerato un posto dove andarsi solo a divertire, eccetera. Adesso c'è un nuovo sindaco che ha deciso, ovviamente in tutti i modi assolutamente legali e corretti, che i beach party non si fanno più. Quindi quest'isola si è trasformata quest'estate da un luogo dove c'era sempre festa, a chi piace, a chi non piace, chiaramente, in un luogo dove invece si può riscoprire la tranquillità, il relax, la natura. Quindi bisogna un po' guardarsi intorno senza andare troppo lontano e si possono scoprire delle cose molto interessanti. Anche perché ne abbiamo veramente tante. Sì. Adriano Paolella, buona domenica. Adriano Paolella è il direttore generale del WWF Italia e allora voi avete diverse iniziative, alcune delle quali coinvolgono i cittadini attivamente. Ne vogliamo raccontare qualcuna, Adriano? Sì, sì, volentieri. Allora, la prima è quella più interessante, più antica, per capirsi, riutilizziamo l'Italia, che è un sistema per cercare di individuare quali sono i manufatti non utilizzati, capannoni industriali, aree industriali, ma anche casali, cascine, edifici. Noi riteniamo che abbiamo in Italia un grandissimo patrimonio di costruito che non utilizziamo, e in questo patrimonio potrebbe essere recuperato o a livello naturalistico se non servisse o se no per metterci altre attività. In questo recupereremo l'energia grigia, cioè l'energia che abbiamo investito per costruire questi manufatti, e si darebbe vita ad un'azione di tipo economico, perché per recuperare questi manufatti c'è bisogno di addetti, e quindi, come abbiamo fatto negli anni 50 nel dopoguerra recuperando i nostri centri storici, ipotizziamo che potremmo recuperare tutti questi manufatti dando attività a persone, formando degli operatori, specializzando le imprese. Questa è l'iniziativa Riutilizziamo l'Italia, che si rivolge a tutti quanti, perché il recupero del nostro paesaggio, della qualità dell'ambiente, non può essere che fatta da tutti insieme con la creatività di tutti, per cui noi chiediamo ai nostri amici di poter segnalare sul nostro sito quelli che sono dei manufatti che possono essere recuperati e che idee hanno loro direttamente per recuperare queste idee. In questo momento ci sono arrivate, è un mese che è partita la campagna, sono arrivate 200 segnalazioni, abbiamo 50 docenti universitari che si stanno muovendo con noi e con i loro studenti, e ci fa molto piacere che questa operazione sia condivisa da più persone possibile, perché per uscire fuori da questo paese, questo paesaggio che è stato fortemente degradato da iniziative e da trasformazioni piuttosto dequalificanti, perché c'è bisogno delle idee di tutti quanti. Certo, quindi insomma un compito per le vacanze è guardarci intorno e cercare di riutilizzare la parte dell'Italia che invece utilizzata non è, anzi è dimenticata. Sì, facendoci venire delle idee, perché poi abbiamo bisogno proprio delle idee di tutti quanti, perché bisogna essere parte attiva per recuperare il nostro paesaggio. Non possiamo immaginare che il nostro paesaggio venga recuperato senza la partecipazione attiva. Ecco, bisognerebbe viverlo come nostro, e quello è il problema, che a volte non lo si sente nostro, chissà perché, no? Non sembra che non ci appartenga, se non è proprio attaccato, se non è casa nostra. Perché è un bene comune. Esatto, non è mai visto come nostro il bene comune, esatto. Questo è un vero problema. Grosso in generale, lo dico. Comunque www.it / riutilizziamo l'Italia, questo è il sito. Poi invece c'è un'altra iniziativa. Sì, questa è un'altra iniziativa, è sulle tartarughe. Noi siamo in un mare molto ricco di fauna, tra questa fauna ci sono le tartarughe marine, noi abbiamo delle campagne oramai da più di 6-7 anni che tendono ad individuare quali sono le zone di riproduzione delle tartarughe, dove le tartarughe lasciano i nidi. Dato che le tartarughe, in particolar modo la caretta lascia i nidi sulla spiaggia, sì, e non sa ovviamente il tipo di utilizzazione che quella spiaggia ha, lei lascia queste uova, poi va via e le uova piano piano crescono, escono fuori le tartarughine piccole che vanno verso il mare. Allora è possibile, come è successo l'anno scorso in più spiagge, che queste tartarughe vanno per esempio dentro gli stabilimenti balneari, o vanno in zone che stanno tra zone fortemente insediate ed utilizzate. Che cosa succede? Che dato che è poco visibile il nido, succede che uno lo calpesta, o se no nel momento in cui fanno le pulizie, in particolar modo nella intersettimanale o prima della stagione, passano con i trattori, con questi macchinari per pulire e distruggono i nidi delle tartarughe. Sì. Allora noi sono anni che cerchiamo di mettere in moto e mobilitiamo una serie di volontari, sono circa 20 campi tartarughe di volontariato che facciamo in Italia, in particolar modo sulle coste della Sicilia e della Calabria, dove più spesso si incontrano questi nidi, e cerchiamo di mettere in moto il volontariato per individuare le aree in modo da presidiarle e poi attendere che le tartarughe crescono andandole a controllare per cercare di capire quando le uova si schiudono e le tartarughe vanno verso il mare. Questa è l'azione che noi stimoliamo, perché è abbastanza semplice da fare, basta se uno passeggia e trova delle tracce, poi ovviamente può chiamare sempre il WWF a tartarughe@wwf.it. Ci abbiamo anche dei numeri telefonici che sempre sul sito si possono trovare, uno chiama e chiede aiuto a coloro Chiaro. Quali sono più comunque il concetto di prestare attenzione e guardare dove mettiamo i piedi, cioè fondamentalmente questa è una questione. Poi ci sono dei campi un po' più evoluti, per capirsi, non è che questi sono poco evoluti, però questi sono più semplici, un po' più complessi, che sono quelli dove poi noi rimettiamo le tartarughe ferite, perché ogni anno nel mare vengono ferite moltissime tartarughe involontariamente con le reti, vengono prese dalle reti, dopodiché una parte viene rimessa perché riesce a liberarsi, a essere liberata e viene rimessa, ma una parte molto significativa viene ferita. In queste tartarughe ferite vengono o trovate incidentalmente o portate dagli stessi pescatori presso i nostri siti, che sono dove ci sono dei veterinari, degli specialisti che le curano, per capirsi, nel momento in cui sono di nuovo in condizione di riprendere il mare, vengono rimesse nel mare. Questo è un momento molto molto significativo. Su questo noi facciamo dei momenti pubblici in cui anche qui in questo caso i volontari possono partecipare, o se no si possono fare, ultima situazione, andare a fare dei campi estivi, per capirsi, per vacanze, dove i bambini possono essere messi a contatto direttamente con questa specie e capire qual è il percorso che noi facciamo per la cura e per la rimissione delle tartarughe in mare. Grazie, grazie Adriano Paolella. Tra l'altro io voglio ricordare anche il sito, che è mediterraneo.wwf.it, proprio rifacendoci a quello che si discuteva prima con Fausta. Grazie ancora, direttore, buona domenica. Buona giornata anche a voi. Grazie. Fausta, torniamo ai nostri viaggi. Io vedo che hai una pagina aperta, cosa stai guardando? Allora, capisco che per gli italiani l'estate è sinonimo di mare. Sì, ovviamente, è sempre stato così e va benissimo. Però mi leggo un po' al discorso che facevi tu all'inizio. Noi viviamo in un paese meraviglioso. L'Italia è uno dei luoghi più ricchi di storia, di cose da vedere, anche di natura, e spesso non conosciamo quello che abbiamo sotto casa, a partire dalla nostra città alla città a pochi chilometri, ecco. E sempre noi come Viaggi del Sole abbiamo puntato molto su tutto quello che è vicino, su tutto quello che è poco conosciuto, e abbiamo fatto un numero qualche tempo fa dedicato alle città d'arte italiane. Uno dice Roma, Venezia, no, nel senso che altre. Sicuramente sì, ma l'Italia è, anche qui abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta, perché sono tantissime e sono state una scoperta. E io ho scritto, perché sono trentina, un pezzo su Trento, e invito i nostri ascoltatori ad andare a Trento, perché Trento, l'imperatore Claudio Romano già la chiamava Splendidum Municipium. Quindi, voglio dire, è una città che risale al tempo dei Romani e oggi è un palcoscenico dipinto. Ha questa piazza con questi palazzi affrescati che raccontano ogni affresco una storia diversa, una storia anche esoterica, fantasiosa, eccetera. E tu stai in Piazza del Duomo, ti guardi intorno e hai questi palazzi medievali rinascimentali che sono meravigliosi. Sì, Trento è conosciuta per il Concilio di Trento nel metà del Cinquecento, e il vescovo Bernardino Clesio, uomo rinascimentale, durante il Concilio di Trento la ripensò completamente. Quindi è una città che racconta una storia d'arte, una storia di religione, una storia di uomini, la storia dell'uomo rinascimentale. Quindi andate a Trento, fate il giro al SAS, che è quello che diciamo noi, che è il giro del centro, tra negozi, strade, eccetera. Tutti intorno ci sono questi palazzi meravigliosi. Altra cosa volevo dire, l'Italia, sì. Quando uno va in Italia, sì, dice l'arte, i palazzi, i musei, e la gastronomia? Quella cioè. Ne parliamo sempre con Davide Pollini, peraltro senso, lo sappiamo bene, sì, certo. Nel senso che andate a Trento, vedete i palazzi rinascimentali, tra l'altro c'è un palazzo al quale io sono particolarmente affezionata, che i trentini chiamano Palazzo del Diavolo. Io quando ero piccola, tutte le volte che andavo in centro, dicevo a mio nonno, portami a vedere il Palazzo del Diavolo, Palazzo Galasso, di un commerciante rinascimentale. Siccome non ci sono documenti che attestano la costruzione del palazzo, si dice che questo signore avesse venduto l'anima al diavolo e in cambio il diavolo gli costruì questo magnifico palazzo. Beh, in una ma notte. È successo anche recentemente che qualcuno si è visto ristrutturato a casa senza saperlo, per cui vedi che va bene, già diciamo accadeva. Così. Ecco, in realtà questo palazzo è bellissimo perché il Palazzo Galasso è stato disegnato da un architetto bresciano che si chiama Bagnadore e insomma è un esempio. Quindi no? C'è una paternità. C'è una paternità. Ecco, a Trento, da Trentina, anche se solo metà Trentina, vi dico, andate, mangiate il risotto al Teroldo, che è una specialità locale, sia il vino sia il risotto, e poi tutto intorno andate a vedere e degustare il vino nelle cantine. Trento è circondata di cantine, è circondata da vigneti, tanto per dire qualche etichetta senza nominare le cantine, il Teroldo, il Marzemino, la Nosiola, cioè ce n'è di tutto. Ci sono i Ferrari di più. Anche c'è la Ferrari, c'è il Ferrari sicuramente, quindi insomma un viaggio non deve essere solo compito, come si dice, no, poi, ecco, è piacere, poi, no? Oltre all'arte c'è molto verde in generale da quelle parti, tra Veneto e Trentino, insomma una zona straordinaria, partiamo dal Lago di Garda per poi salire, io così mi piaceva citare la funivia poco prima, siamo ad Affi, vicino ad Affi, la funivia che da Malcesine, che è un altro posto bellissimo, ma tutti questi paesi sul Lago di Garda sono straordinari, va fino sul Monte Baldo e la cosa curiosa, mi piaceva citare, perché il dislivello di questo funivia è 1650 metri, percorsi in 4325 metri, ma la cosa incredibile è che il secondo tratto è l'unica funivia al mondo che gira su se stessa e quindi mentre si sale si ha la volontà di guardare, di vedere il lago dall'alto in tutte le sue parti, quindi è interessante perché ci sono anche così degli itinerari divertenti che fanno scoprire anche cose di cui siamo gli unici possessori al mondo. Infatti io non la conoscevo, è sotto casa mia ma non la conoscevo. È tipico. Sì, assolutamente. Vicino c'è ad esempio, sì. Siccome lì ci sono le colline carsiche, c'è il bosco delle cascate, quindi c'è questo itinerario dove si possono vedere, visitare in un'ora e mezza 15 cascate diverse, piccole cascate ovviamente, è un percorso bellissimo da fare con i bambini. Ecco, di posti da visitare l'Italia, sì, appunto, tantissimi. Ne ha veramente tanti. Tra l'altro volevo dare una super anticipazione. Adesso noi il prossimo numero, che ne dico il 24 di agosto, poi vorrei parlare di questo numero, sarà dedicato a Berlino, che è una città pazzesca, meravigliosa, in continuo cambiamento. Il numero successivo, che sarà in edicolo ottobre, è dedicato al Lago di Garda. Lago di Garda, che per noi è una cosa che conosciamo ma non neanche tanto, anche perché ha tre sponde diverse, Trentina, Veronese, sì, Bresciana, e quindi a ognuna di queste sponde corrisponde una storia, una cultura completamente diversa e quindi interessante. E quindi bellissimo, ecco, io posso dire per esempio per la parte trentina, che appena a nord del Lago di Garda, salendo verso il Trentino, non facendo la strada del Brennero ma seguendo proprio quella del lago, si arriva al Lago di Toblino e di Santa Massenza. Sul Lago di Toblino c'è un castello meraviglioso che era la residenza estiva del principe vescovo che era a Trento. Il lago è meraviglioso, un posto romanticissimo ed è celebre perché lì ci sono i vigneti che fanno il vin santo, e sul Lago di Santa Massenza è chiamata la zona degli alambicchi perché una notte all'anno questi alambicchi funzionano tutta la notte per creare questa grappa di vin santo che è squisita. Ecco, quindi già abbiamo raccontato fin troppo, velocemente, sì, aggiornamenti sul traffico che siamo un po' in ritardo. Abbiamo appena citato quella zona e lo facciamo ancora con Patrizia Vaschetto, che saluto. Patrizia, buona domenica. Buona domenica a tutti voi. Siamo al Parco Nazionale Gran Paradiso e perché c'è un progetto che da molti anni va avanti, si chiama Piedi fra le nuvole, sono 10 anni che c'è. Sì, questo è il 10° anno di questo progetto. È un progetto di mobilità dolce, si può dire, nel senso che intende incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto per raggiungere una zona molto bella nel cuore del parco, a cavallo tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, che sono le due regioni entro le quali ricade il parco. E permette, appunto, il progetto riguarda l'accesso con mezzi alternativi all'area del Colle del Nivolé. Siamo a 2600 metri di quota, da 10 anni a questa parte i turisti sono invitati a lasciare la macchina più in basso nei parcheggi predisposti e a prendere delle navette gestite dal GTT, che è Gruppo Torinese Trasporti. Infatti questo progetto è stato voluto fortemente non soltanto dal Parco del Gran Paradiso, ma anche dagli enti territoriali, quindi la provincia di Torino, che è la proprietaria della strada su cui viene effettuata questa regolamentazione estiva, e i due comuni, il comune di Ceresole Reale in Piemonte e di Val Savaranche in Valle d'Aosta, oltre alla regione Valle d'Aosta. Ecco, quindi diciamo che siete obbligati, tra virgolette ovviamente, a percorrere gli ultimi 6 chilometri a piedi, giusto? Sono a così. Piedi oppure con la navetta, oppure a piedi. Molti è aumentato moltissimo la possibilità per gli amanti della bicicletta, ovviamente, che possono sì. farlo in tutta tranquillità, in quanto è ridotto il numero delle auto, e anche a cavallo, devo dire, ci è capitato di vedere anche dei cavalieri che sono saliti proprio perché a questo punto non c'è il traffico automobilistico. Ecco, chi volesse informazioni cosa può fare, Patrizia? Ma intanto abbiamo un sito, che è il sito del parco, il sito ufficiale, che è www.pngp, che sono le iniziali di Parco Nazionale Gran Paradiso.it. C'è una sezione dedicata a questo progetto, appunto cliccando a piedi tra le nuvole, si ritrova il programma delle domeniche, tutte le domeniche, oltre alla regolamentazione, che è solo un aspetto, e l'aspetto forse più appunto limitante in quanto regolamentazione, ma oltre a questo ci sono aspetti molto più interessanti per i visitatori, che sono attività di animazione per i bambini, eventi, proposte enogastronomiche, perché è un progetto che negli anni ha coinvolto anche gli operatori del territorio. Quindi c'è la possibilità magari di fare una passeggiata accompagnati dalle guide del parco o dai guardaparco, e poi fare altre iniziative come visite in alpeggio oppure dagli apicoltori locali, e poi assaggiare ovviamente i prodotti locali nei ristoranti che sono presenti lì, e molti dei quali tra l'altro hanno ricevuto il marchio di qualità del parco. Ecco, quindi segno si sa che noi italiani i 6 km per ce li facciamo volentieri, se però sappiamo che poi potremo sederci e mangiare qualcosa, certo, un po' fatti anche così. Gli aspetti più materiali, questo immateriali. Ma la cucina fa parte del nostro DNA. Grazie Patrizia Vaschetto, buona domenica. Grazie, buona domenica a tutti voi. Grazie, ho ragione Fausta, è così, no? Sì, è così, anche se poi è un po' un mito da sfatare che l'italiano vuole sempre mangiare gli spaghetti alla fine, no? Dipende dove vai. No, ma ho detto mangiare, non ho detto mangiare, che cosa. Ok, ecco. Mangiare. No, poi secondo me bisogna anche sfatare, sono un po' di miti secondo me che vanno sfatati. Facciamolo. Allora, il primo è questo del cibo, perché se uno va in India non può pensare di trovare. Altra cosa, spesso gli italiani, parlo di italiani, poi possono anche, generalizziamo un po', hanno paura di viaggiare, perché vanno incontro a quello che non sanno. Sì. E dall'altro lato hanno un po' demonizzato il lavoro degli operatori, dei tour operator. Ecco, questo è sbagliato, perché ci sono tantissimi luoghi nel mondo dove non ha quasi senso mettersi lì a organizzare il viaggio, la macchina, anche perché le strade non sono come le nostre, eccetera. Ci sono dei luoghi nel mondo con operatori bravissimi, poi il modo in cui uno viaggia in gruppo, da solo, si può sempre scegliere, ma appoggiarsi a un operatore vuol spesso dire vedere i posti più belli, evitare tutti i problemi, le lungaggini se uno viaggia da solo, e andare a vedere quello che vale veramente la pena di vedere. Penso a tanti luoghi in Africa, in America Latina, in America del Nord, in Asia, cioè il mondo è fatto di luoghi dove forse è meglio appoggiarsi a un operatore e non rischiare magari anche di andarsi a infilare in situazioni difficili. Certo. Ecco, detto questo, il mondo, parliamo del mondo. Allora, il mondo è tutto da scoprire. Io credo che scegliendo il tipo di vacanza uno può decidere dove andare. Io parlo, tutti mi conoscono, chi mi conosce sa che io sono un'appassionata di Africa, e dici ma come, una trentina appassionata? Ce l'hai anche appesa sì, al collo. Sì. Sì, perché l'Africa è un luogo che mi ha preso subito, e il primo viaggio che ho fatto in Africa l'ho fatto in un'Africa difficile, perché sono andata in Togo, in Benin, che sono luoghi dove, quando mi hanno detto, mio direttore dell'epoca mi disse devi andare lì, io ho detto vado, poi sono andata a vedere sull'Atlante dove fosse questo posto. Allora, è chiaro che il Ghana, il Benin, il Togo sono i luoghi dell'Africa, quella degli uomini, dove è nato il voodoo, dove è nata la schiavitù, dove ci sono i castelli, le rocche degli schiavi, eccetera. È un posto meraviglioso. Certo, uno deve piacergli questa cosa, oppure il deserto, quando parlavo prima di luoghi che non si possono più purtroppo vedere, se si parte dall'Oceano Atlantico e si arriva fino al Mar Rosso, tutta la parte centrale dell'Africa, Mauritania, Algeria, Tunisia, Niger, Chad, sono luoghi meravigliosi. Ma uno dice ci sono solo le dune. Non è vero, perché c'è una sorta di cerniera tra l'Africa del Sud e l'Africa del Nord, c'erano le carovane, Timbuktu l'abbiamo nominata prima, ci sono dei luoghi meravigliosi. Altra cosa, la natura, dicevo, io vado un po' a spot, durante i viaggi che ho fatto ho scoperto la bellezza dei fiumi, perché una volta oltre che per mare si andava per fiume e le città si collegavano tra loro, i commerci eccetera, attraverso il fiume, quindi fare i viaggi lungo i grandi fiumi del mondo è una cosa meravigliosa. Parliamo del Mekong, parliamo del Niger in Africa, parliamo del Rio delle Amazzoni, sono posti dove uno scende e in ogni luogo dove scende trova dei villaggi, dei mercati, delle cose da vedere, delle chiese, dei monumenti. Cioè il fiume è un andamento lento che ti consente di vivere le situazioni da vicino. Adesso sto buttando delle suggestioni, oppure le città, le grandi città di oggi, le metropoli, penso agli Stati Uniti, penso al Canada, Toronto, New York, insomma ognuno deve scegliere quello che desidera fare. Altro suggerimento, però parla una che gira con la guida in mano, quindi forse non faccio testo. Quando si va nelle grandi città, magari il primo giorno, prendiamo una guida. Prendiamo una guida, il primo giorno, il secondo giorno, dipende da quanto è grande la città, perché è una professionista la guida che ti porta a vedere, ti dà un quadro, ti fa vedere le cose principali. Io 20 giorni fa sono andata a Verona, che è una città vicinissima a Trento, conosciuta. Infatti, scusami, sono chiosa semplicemente, no. Perché parlavi di fiumi e vale anche per l'Italia. Certamente, questo discorso. Lì abbiamo l'Adige e tu basta che tu lo percorra, sì, e riesci a vedere assolutamente tutto. Assolutamente, ma abbiamo anche noi il Naviglio, tanto per fare un esempio, no? Perché adesso hanno organizzato questi battelli bellissimi per cui vedi le cascine. Cioè, ci sono tanti modi di viaggiare, quindi bisogna un po' lasciarsi andare, capire cosa ti piace e in base a quello scegliere il proprio itinerario. Appunto, dicevo delle guide di Verona. Io avevo una guida che mi ha portato alla scoperta in una mattina, mi ha dato un'idea, ecco, e io ero felice alla fine di questo tour. E pensa che non la eri a due passi da Trento e non la conoscevi. Non la conoscevo, quindi. Esatto. Ma perché noi italiani abbiamo questo difetto? Ma ce l'abbiamo tutti, eh? Sì, però non conosciamo chi ci sta di fianco. No, secondo me noi abbiamo il problema che abbiamo troppe cose. Secondo me questa è una scusa. Gli americani non ce l'hanno, no, questo problema. Questa è una scusa, sì, io vero. Sono convinto di è questo. Vero, sì, è sì. Solo una scusa, perché non significa ho tanto e allora non vedo, no, non è, no. Io non ci posso credere. Guarda, c'è un posto vicinissimo a Milano che ho scoperto tanti anni fa e l'altro giorno ne parlavo con un'amica e mi dice ma cosa posso fare questa domenica? Ho detto senti, vai a Sabbioneta, sì, vicino a Mantova, la città ideale, conserva ancora il teatro, e lei mi fa Sabbioneta, e dov'è? No? Certo. Ecco, allora basta solo avere uno spunto, e adesso è presuntuoso dire questo, però anche noi sui Viaggi del Sole cerchiamo ogni tanto di fare uno sforzo noi stessi per cercare dei luoghi e uno dice ah però questa cosa non la conoscevo, ecco, perché è facile dire vado ai tropici, al mare, quello va bene, no, va benissimo, però ci sono tante alternative, soprattutto per quando appunto non si ha neanche la possibilità economica o di tempo, certo, per andare così lontano. Certamente. Ci sono dei bellissimi posti da scoprire anche vicini e questo è anche e non si sanno, no, e quindi è giusto conoscerli, di ecco fatto. Perché la guida in questo senso, sia quella cartacea sia quella umana, fisica, sono sempre importanti. E c'è il GR tra pochissimo, poi Riposo del Guerriero torna con quelli che sono i compiti che ci diamo o che date per le vacanze. Vi ricordo il numero per gli messaggi 349-238-6666. Alle 11:05 minuti continua il Riposo del Guerriero, stiamo parlando di compiti per le vacanze, stiamo viaggiando anche con la mente, con la fantasia. C'è un messaggio che mi fa molto sorridere e lo leggo molto volentieri, siccome io ospite qua Fausta Fibieca, caporedattore del mensile dei Viaggi del Sole, Viaggi 24. Lei diceva quando andate in una città cercate una guida perché in poco tempo riuscite a vedere molto e le cose più importanti. Invece c'è un messaggio che da un certo punto di vista mi fa sorridere, perché io sono un po' come te, Fausta. Fausta, sì. Ma ammiro molto invece chi è come, chi ha scritto il messaggio, che dice: al contrario della vostra ospite, io adoro quando arrivo in una città che non conosco, andare in giro senza una mappa e perdermi. Bellissimo, ecco. Fa benissimo. Bisogna essere capaci, sì. Io non sono capace. Ma una cosa non esclude dico. L'altra. No, eh? È vero, però se abbiamo quella mentalità lì è difficile anche sì. Perderci, perché c'è il senso c'è sempre dell'orientamento. C'è sempre la mediazione dell'intelletto. E invece io amo farmi trasportare da persone che invece sono come chi mi ha scritto il messaggio, che condivido molto. E un'altra cosa, tra i compiti delle vacanze, dicevo, c'è quello di rimettersi in forma, di fare degli sport per forza di cose, perché abbiamo tempo. Io se dovessi scegliere davvero un docente di fitness, sceglierei per forza David Stauffer. David, buongiorno. Buongiorno. Perché solo il nome mi dà già l'idea di disciplina. Io sono già pronto. Cosa devo fare? È vero, sono qua allora, con la mia tutina. Ci vuole poco. Un po' di spazio, un po' di volontà. Quella ci vuole proprio, sì. Sì. Pochi esercizi, ma la parola giusta è la costanza. Di fare costantemente ogni giorno poche attività. E poi piano piano si mette in forma, ma la costanza e la volontà. Ecco, Davide, allora d'estate, siccome il fitness è la prima cosa, no? Cosa consigli di fare e soprattutto quali sono le richieste delle persone che arrivano in questo periodo dell'arco? Che ridi, lo so che ridi, è giusto, sì. Fai bene. La richiesta è questa: devo andare al mare prossima settimana, vorrei dimagrire qui e mi fa notare la pancia, pure l'esterna coscia, eccetera, eccetera. La cosa importante ricordare è che fitness e di mettersi in forma non è una cosa stagionale, è una cosa che dobbiamo fare tutto l'anno e è un modo di vivere. Comunque, se una persona ha una settimana oppure due settimane di mettersi in forma, sì. Mangia poco ma spesso, beve un sacco di acqua, dormi bene. E poi piano piano, in un giro di due settimane, si può fare qualcosa, si può notare qualche centimetri in meno. La cosa importante l'hai detta all'inizio, cioè la cura del corpo, il fitness in questo caso, è qualcosa che bisogna curare tutto l'anno. Non ha senso mettersi lì all'ultimo per cercare di... perché appunto, come dici tu, ci vuole costanza e volontà, assolutamente. E quindi hai delle richieste anche impossibili, diciamolo. Sì, certo. E questa è veramente una mancanza di informazioni dal pubblico. Sì. Quindi quando sento queste domande, queste cose che io so che è impossibile, provo di educare i clienti dicendo: guarda, noi possiamo fare così, perché se noi dobbiamo dimagrire 10 kg in due settimane, alla fine rischio di farsi male e alla fine si fa 10 passi in avanti per fare 10 passi indietro per fare quel piccolo 2 passi in avanti e non vale la pena alla fine. Quindi provando di accettare certe situazioni, certe atteggiamenti, dicendo che va bene, questo può andare, proviamo a focalizzare su quello che possiamo fare in due settimane. Ecco, Davide, senti, ogni anno c'è una moda di qualcosa nel fitness. Quest'anno è la moda di cosa, se ce n'è una? Allora, la moda di fitness adesso è continua di essere un sviluppo di Pilates, sì. E tutto gli esercizi che collega la mente al corpo, perché, e sono contento per questo, dopo gli anni 2000, gli anni 90 in cui era solo basato sull'estetico, stiamo capendo il concetto di wellness. E il concetto è che dobbiamo stare bene anche dentro, non solamente fuori. Ma comunque il Pilates continua di stare sempre numero uno, perché non è una cosa dolce, perché quando io sento facciamo Pilates perché non si suda. Pilates è molto molto intenso volendo e si sta fare un'attività e si sta stare bene dentro e anche fuori. Ecco, quello si può anche seguire così, semplicemente per il proprio piacere, anche durante sì. La pausa estiva, no? Anche se non lo fa tutto l'anno. Tanto certo. Fa bene, perché è un esercizio aerobico, no? È un esercizio più di tonificazione, ma non chiede neanche per attrezzi. Quindi puoi, anche se tu hai praticato un po' di Pilates durante il mese di primavera, tu puoi andare e praticare ancora nel tuo camera in albergo oppure sulla spiaggia tranquillamente quando sei in vacanza. Ecco, l'ultima cosa, visto che tu sei anche master trainer per il fitness musicale, mi spieghi che cos'è il fitness musicale? Allora, fitness musicale è tutte le attività che si pratica con la musica. La musica, oltre a dare una motivazione, ti dà un ritmo di tempo in cui crea una certa intensità. Quindi la musica ti dà l'intensità di raggiungere certe frequenze cardiache per bruciare grassi oppure bruciare di zuccheri, eccetera, eccetera. Quindi tutte le attività che tu fai insieme con la musica, io insegno gli insegnanti come gestisce come erogare queste lezioni. E sei tu che fai i conti, ovviamente, che dici 2, 3, 4, giusto? Ecco, sei tu che dai il sono tempo. Sono io che dico ecco. Quello, 4, 3, 2, 1. Ecco, senti, no, che con l'accento così ti garantisco che è molto più efficace. Mi dispiace, ma è così. Cosa ti devo dire? Funziona anche quello, è importante. Grazie. Sì, ma anche voi italiani quando andate in America, noi... Noi siamo così, ma perché io sono degli anni 80, quindi arrivo quindi da Ether Parisi, da Jane Fonda, esatto, e quindi è quell'accento che tu hai sempre in testa che ti fa star meglio solo a sentirlo, per questo è un piacere. Grazie. Molto David bene. Stauffer, ciao. A grazie. Voi buona giornata. Buona ciao. Giornata, buona... vero che ho ragione, sì, no? Quando ci credi di più. Però mi è venuta in mente una cosa, sì, sentendo questo magnifico trainer. Un altro modo per viaggiare, per stare in forma, perché dici tutto l'anno, è appassionarsi a qualche ballo. Perché facciamo un esempio: salsa, merengue. Uno va a Cuba, va a vedere, sì, un posto, balla durante l'anno a Milano dove abita, va a fare i corsi, va a ballare e poi va a Cuba e fa altro che ballare. E vede, no? Come si fa. E vede come si fa. A una persona che piace ballare il tango, va a studiare, a fare i corsi in città, poi può cogliere l'occasione per andare in Argentina, sì, a ballare il tango a Buenos Aires. Cioè, ci sono tanti modi, anche tenersi in forma e poi divertirsi e poi andare a scoprire la cultura di un paese. Anche la musica, anche la danza può essere un'occasione, uno spunto, no? Sì, certo, una passione, sì, ad esempio. Sì, sì, la passione è quella che può anche spostare, certo, in effetti, è così. Alessandra Tedesco, ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Ciao Alessandra, tu sei adesso al Cortona Mix Festival. Sì, sì, sono a Cortona, un delizioso paesino vicino ad Arezzo. Stiamo parlando la di paesi. No, sì, nel senso, io la conosco perché sono andato a visitarla, ma comunque uno di quei famosi posti che bisogna andare a vedere. Per bisogna forza, assolutamente, sì, andare a vedere. Poi da quest'anno c'è una ragione in più, perché c'è la prima edizione del Cortona Mix Festival, che è partito praticamente ieri e sarà fino a domenica prossima 5 agosto. È un festival organizzato dalla casa editrice Feltrinelli e propone non solo libri, quindi scrittori per esempio come la cilena Marcella Serrano, l'inglese Jonathan Coe, l'italiano Harry De Luca, ma propone un mix appunto fra le varie culture. Quindi ci sarà la ballerina Eleonora Bagnato, ma ci saranno tra i musicisti il pianista Stefano Bollani, Custurisa, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, il ministro Elsa Fornero. Si mettono insieme un po' le diverse espressioni della cultura per fare un festival che possa attrarre appunto la gente che viene magari qui durante le vacanze. Ecco, con te Alessandra volevamo capire come cambiano le classifiche di vendite in base alle letture scolastiche, perché il fatto che tra i compiti delle vacanze ci sia quello di dover leggere delle cose fa cambiare anche le vendite dei libri. Assolutamente sì, questo avviene generalmente fra metà giugno e metà luglio, quindi diciamo che adesso il periodo è già passato. In questo mese qui si verifica che nelle classifiche dei 20 libri più venduti compaiano nomi per esempio come Calvino o, non so, posso dire anche Primo Levi per esempio. Perché? Perché sono le letture che gli insegnanti assegnano da leggere durante l'estate, per esempio alle scuole medie o alle scuole superiori. Quest'anno ho monitorato questo periodo e ti dico che i libri rientrati in classifica dopo decenni sono Se questo è un uomo di Primo Levi, per esempio, e poi di Italo Calvino veramente di tutto, dal Barone Rampante al Visconte di Mezzato, il Sentiero dei Nidi di Ragno, il Cavaliere Inesistente. Insomma, Calvino, devo dire, va per la maggiore fra le prescrizioni degli insegnanti come lettura per l'estate, devo dire che è un'ottima prescrizione. Ma sono entrati in classifica anche libri, per esempio, come Bianca come il latte, Rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia, che è un libro per ragazzi che a volte suggeriscono anche gli stessi insegnanti. E poi Il Piccolo Principe torna sempre, come dire, ciclicamente. Quello va sempre bene. Quello va sempre bene, però in questo periodo ritorna soprattutto in classifica appunto per questa ragione. È vero. Grazie Alessandra Tedesco e goditi Cortona Mix Festival e goditi Cortona in generale. Grazie, ecco, a voi, un bellissimo a tutti. Posto. Grazie davvero, gli aggiornamenti sul traffico e poi il nostro prossimo ospite che ha comunque a che fare davvero con i compiti del dopo vacanze. Un'altra delle cose che bisogna pensare durante le vacanze è che cosa fare dopo. Questa è, sì, anche perché a volte non c'è neanche un dopo. Per quello lo dico. E allora bisogna pensare che cosa farò. Antonio in Corvaglia, ciao, buona domenica. Ciao. Ciao Stefano, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci risentiamo perché insieme ad Alessandro Rimassa voi avete pubblicato già qualche tempo fa un libro intitolato Jobbing, guida alle 100 professioni più nuove e più richieste, perché non c'è solo l'università, sì, a volte, nel senso che uno può anche pensare di non voler percorrere appunto il cammino universitario, ma cercare di fare qualche cosa. E voi in questo libro cercate di far capire quali sono i lavori anche diversi, insoliti, che però sono richiesti, che offrono delle possibilità. E tanti devono passare l'agosto anche a cercare di capire che cosa fare da settembre in poi, da questo punto di vista. Quale consiglio certo. possiamo dare, Antonio? Ma allora, sia ai ragazzi che si sono recentemente diplomati e quindi che hanno sostenuto l'esame di maturità, sia a quelli che invece si sono appena laureati o dovranno laurearsi, insomma, negli immediati prossimi mesi, il consiglio che do è quello di guardarsi intorno, soprattutto di capire come poter utilizzare concretamente il loro diploma o la loro laurea, il loro pezzo di carta, come viene generalmente chiamato, perché non sempre un inquadramento professionale richiama in maniera così didascalica come nel passato una professione o un'esperienza accademica. Mi spiego: soprattutto il mondo della rete oggi, che si evolve con una velocità fulminante, quasi crea quasi quotidianamente nuove professioni che vanno un po' a pescare competenze totalmente trasversali, quindi anche chi si è diplomato per esempio in una scuola di fumetto, e io ho avuto ex colleghi che uscivano da quel tipo di formazione, può fare il grafico web, può fare il designer, può disegnare interfacce, può anche fare il copywriter, perché no, l'illustratore per la rete. Chi si è laureato in lettere o in filosofie, generalmente c'è questo luogo comune per cui non trovi lavoro, sì, non c'è lavoro, esatto. Che cosa hai scelto? Perché hai scelto? O vai a insegnare o non c'è niente. In realtà la rete offre possibilità sia di scrittura, blogger, social media manager, oppure addirittura strategiche, posizioni più strategiche come appunto lo strategic planner, che oggi va molto di moda e che accolgono formazioni ed esperienze accademiche le più disparate. Ecco, quali sono le scuole che si possono frequentare dopo le medie, per esempio, o le superiori, senza voler fare l'università, ma che possano offrire un'opportunità in questo momento? Ma allora, ci sono secondo me tanti corsi professionali di qualsiasi tipo, anche da relativamente poche ore, sia attinenti le professioni del web, sia attinenti le professioni più artistiche, appunto abbiamo parlato di scuole di fumetto, scuole di illustrazione. In realtà sono molto richieste oggi anche le professioni di manodopera specializzata, quindi anche da questo punto di vista, a proposito di non voler fare l'università, sì. Bisogna dire che si sentono sempre le voci degli adulti, in qualche modo suggerire ai giovani di non investire necessariamente in formazione, perché poi le professioni realmente richieste sono anche quelle più artigianali, per esempio. Dall'altra parte però è vero anche che chi invece vuole investire in formazione universitaria deve avere le idee molto chiare, perché oggi l'università non introduce al mondo del lavoro. Io adesso coordinerò con lo IED a partire da novembre un master in digital media management, che invece per esempio è proprio focalizzato a facilitare, agevolare l'ingresso di persone con la voglia di mettersi alla prova in rete in agenzie e aziende. Per cui idee chiare, guardarsi intorno durante le vacanze, perché poi oltretutto è un periodo in cui il mercato dorme abbastanza, per cui si possono fare valutazioni che in corsa, durante il corso dell'anno, non si possono fare, e a settembre, oltre al back to school per chi va ancora a scuola, il back to work per chi invece cerca lavoro o vuole riposizionarsi. Infatti, grazie Antonio Incorvaglia, buone vacanze. Anzi, se le farai, salutami Alessandro Rimassa, visto che lo sentirai, visto che avete scritto insieme il libro. Grazie, buona domenica ancora. Ciao Stefano, buone vacanze a voi, ciao. Jobbing, guida le 100 professioni più nuove e più richieste. Fra l'altro ha citato la scuola del fumetto, prima Antonio, prima ancora Alessandra Tedesco ha citato i libri da leggere per le vacanze, cioè quelli più che altro che in qualche modo gli studenti sono obbligati a leggere, che tornano in classifica. Volevo citarvi invece La storia del West, che è un romanzo romanzo italiano a fumetti in 20 volumi che racconta con rigore storico l'epopea del selvaggio West ed è in edicola ogni martedì con Il Sole 24 Ore. Il primo numero, Verso l'ignoto, è già stato pubblicato e adesso troverete invece Gli avventurieri martedì prossimo, il secondo. Comunque potete chiedere anche il numero precedente ovviamente per avere poi tutto il romanzo completo a fumetti, perché è una delle letture che si fanno volentieri in vacanze, proprio quella del fumetto. Non so quanto tu sia una lettrice di fumetti, Fausta. Non molto, confesso, mi piacciono ma non molto, uno fa delle scelte, però anche quando danno i libri da leggere a mia figlia li rileggo o li leggo volentieri, perché per fortuna nella scuola oggi ci sono dei bravi insegnanti che danno dei buoni consigli, insomma. Ecco. Quale consiglio possiamo dare per chi è obbligato in qualche modo a non fare vacanze, a restare in casa, e però cercare di concedersi, ecco, delle vacanze anche mentali, sì, non so. Ma io credo che comunque il panorama di giornali, siti che ti fanno un po' sognare è molto ampio. Io ovviamente, per quanto interessata alle cose che facciamo noi, consiglio di andare per esempio sul sito Viaggi 24, il sito di Viaggio del Sole 24 Ore, dove tutti i giorni ci sono delle proposte, degli spunti, degli stimoli, anche dei pezzi che fanno sognare. E sullo stesso sito poi c'è il rimando al giornale Viaggi del Sole. Prima parlavamo, per chi fosse interessato basta andare in edicola, chiedere i numeri arretrati che si desiderano oppure comprare il giornale e vedere cosa c'è sul giornale. Altra cosa, i libri di viaggio sicuramente, le trasmissioni di viaggio. Io penso che ormai gli scrittori più famosi, più celebri sono italiani e non. Anche leggere un libro di uno scrittore americano, di uno scrittore, di una scrittrice argentina ti fa viaggiare, no? Perché ti racconta comunque di luoghi. Uno che spaccato uno... di quel sì, quindi quel ci luogo, sono tanti certo. modi di viaggiare. Certo, quello migliore è andare, ma chi non lo può fare, penso che alcuni libri di scrittori americani abbiano raccontato New York come poi uno non riesce mai a vederla dal vero, no? o altre situazioni. Quindi anche questo può essere un'occasione. Quando ritornerai nella tua Africa? Ecco, nella mia Africa vorrei tornarci. Il discorso che ho fatto prima delle Olimpiadi della Pace è fondamentale, perché nonostante io abbia parlato di guide, di città, per me il viaggio più bello è nel deserto, dove uno mette il suo materassino e il suo sacco a pelo e dorme alla Belle Étoile. Il deserto è la mia casa e purtroppo tornarci sarà difficile, perché come dicevo i paesi che io preferisco, che sono l'Argentina, l'Algeria e il Niger, il Mali, sono oggi quasi off limits. Spero presto, spero prestissimo. Vabbè, noi te lo auguriamo. Grazie. Ovviamente, assolutamente sì. E c'è il nostro gastronauta a questo punto. Le campionesse di nuoto bevono Rocchetta, acqua della salute. In bocca al lupo, ragazze! Vi presenta il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Davide Paolini. Buongiorno a tutti. Dove sei di bello? Ma sono fermo a Milano oggi. Quali sono i tuoi compiti per le vacanze allora? Ma i miei compiti per le vacanze sono innanzitutto di chiudere una serie di 12 guide che usciranno sul Sole 24 Ore da ottobre in poi, anzi dalla fine di settembre in poi, quindi guide che sono molto indicate al viaggio, perché ci saranno pasticcerie, ci saranno pizzerie, gelaterie, ristoranti, sagre, insomma sarà una serie infinita di 12 settimane che appariranno, quindi un compito abbastanza ogni giorno di essere presente sul pezzo, come si dice. Ecco, quindi insomma è un compito vero, hai veramente compiti come a scuola. Quindi a questa, sì, no. Compiti come a scuola, e quest'anno purtroppo le mie vacanze saranno un po' limitate proprio da questo, cioè da questo lavoro, perché quando i lavori sono addirittura d'arrivo sicuramente ci sono sempre delle sorprese. Davide, tanto quando tu fai, cioè quando dici che tu sei il gastronauta, la gente ti risponde che tu sei sempre in vacanza, per cui è sì, che lo so. Non so. Infatti io ho inventato questo neologismo che ci può vagare, quindi sicuramente lo tengo molto, molto presente. No, invece devo dire che in questo momento sarò abbastanza fermo non, sì, sono anche in movimento, ma più fermo, perché devo anche scrivere, devo verificare, quindi tutta una serie di ecco, cose che mi portano. La cosa più interessante sarà verificare, ovviamente. Se ti serve qualcuno, io ci sono. Sì, perché no, ma diciamo che chi mi vuole mandare segnalazioni su pasticcerie, gelaterie, eccolo, pizzerie, eccomi qua, pronto, info@gastronauta, spedite, che ancora non ho ultimato niente, quindi ci sono a sorpresa anche dell'ultima ora. Benissimo. Però sentivo prima sul discorso del viaggio. Sì. Io credo che si possa viaggiare anche stando fermi, nel senso che molte volte quando si mangia un prodotto particolare, un formaggio, non so, o un salume, uno può fare un viaggio ritroso mentre mangia, può veramente ripensare magari dove è stato prodotto e quindi ripercorrere con la testa un po' i luoghi di produzione. Credo che mangiare porti anche a pensare, quindi molte volte il cibo fa viaggiare a ritroso e quindi si può anche stare fermi e si può anche fantasticare mentre si mangia e mentre si sta fermi. Io credo che i libri, per esempio anche molti libri servono a viaggiare mentre si sta fermi, perché ci sono dei libri affascinanti che tu viaggi con lo scrittore. È quello che diceva proprio Fausta prima. Grazie Davide. Ti lasci trasportare. È vero. Grazie Davide. Noi ci sentiremo anche nella versione estiva del Riposo del Guerriero. Quindi purtroppo dovremo lavorare anche allora. Sì. Ciao, buona domenica ancora. Ciao, a presto. Ciao. Io volevo chiudere con te, Fausta. Anzi, prima una cosa. Oggi avrebbe dovuto esserci con noi anche la nostra glottologa Francesca Dragotto, che sentiremo, ma poi la sentiremo durante tutte le puntate del Riposo del Guerriero in versione estiva, che cominciano dalla settimana prossima. Mi scuso con Francesca perché non siamo riusciti a sentirla, però lei ha fatto tutta una ricerca ovviamente sulle parole low cost, last minute, all inclusive, tutte queste parole che ormai fanno parte, imperano, no? Sì, esatto. Sì. Allora, se volete leggere tutto quello che sarebbe stato l'intervento di Francesca Dragotto, andate sul sito tuttopoli.com, che come sapete nasce proprio come spin-off del Riposo del Guerriero. Anche io ho usato volutamente un termine inglese. Io volevo chiederti, per chiudere, Fausta, se c'è un luogo, a parte l'Africa, sì, abbiamo capito, che invece tu ti ricordi per qualcosa di assolutamente particolare, o per aver mangiato benissimo, o per aver visto qualcosa che non ti aspettavi. Ma uno dei posti che amo di più al mondo e rimpianto di non poterci più tornare è la Siria. Io trovo che la Siria sia un paese meraviglioso. Ci ho portato anche mia figlia e anche mio marito. C'è questo posto, ma non perché è nel deserto, non c'entra nulla, che è Palmira, che è una città romana, la regina era Zenobia, ed è un miraggio perché tu hai il massimo della cultura in un posto che non ti aspetti. La Siria è la culla della nostra civiltà, insieme ad altri paesi ovviamente della Mesopotamia eccetera, però la Siria mi è rimasta nel cuore profondamente, così come mi è rimasta nel cuore Aleppo, che ha il souk più grande del mondo. È un posto meraviglioso, spero che presto ci si possa tornare, spero che loro possano trovare la pace, ma io ogni volta che leggo la Siria sul giornale oggi mi viene un colpo al cuore, perché quel posto mi è rimasto nel cuore e rimarrà sempre nei miei ricordi, ecco. Grazie Fausta Fibier, caporedattore dei Viaggi del Sole e Viaggi 24. Ancora buona domenica, a questo punto buon viaggio. Grazie. Te lo devo dire per forza. Tra poco giochiamo invece con il mistero in 24 minuti, 800 24 0024. Un mistero in 24 minuti. Siamo pronti con i 1000 euro per voi da spendere in libri, sia cartacei sia digitali, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. Per arrivare alla soluzione avrete degli indizi musicali, ma più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Il numero per partecipare 800 24 0024. La risposta può essere una delle notizie della settimana, oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Ed ecco il primo indizio. Sirene di navi urlavano al vento, la radio passava le pubblicità, le labbra accostate ancora una volta ed una carezza ancora. A filo di sole entrò nella stanza, sulla poltrona i nostri paltò, parole inghiottite, sguardi bambini, e come poterti dire che tu eri macchina fosforescente dei fiori finti sopra il comò, cercavi collan distratta indolente e un giorno di più allo specchio. Il frigo russava dalla cucina e tu canticchiavi facendo il caffè, la tristezza lunga della mattina e come gridarti amore. Molti anni fa, un po' di più, questo è il primo indizio, c'è Sandro dalla provincia di Milano come primo a partecipare, e, no, da Giovanni, da Firenze, scusatemi. Giovanni. Buongiorno. Ciao, Stefano. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora Giovanni, questo è il primo indizio, ci sono 1.000 euro per te, okay. Che cosa volete fare? Allora, vuoi? Siccome seguo abbastanza la radio, sì. E stavolta sono in grossi guai e completamente al solito chiedo un altro indizio. Ecco, quindi scendiamo. Di solito i primi che aprono sparano. Invece tu dici, giustamente dici no, perché dovrei? Fammi così ridimensionare le possibilità. Quindi secondo indizio per Giovanni e per tutti gli altri. Davanti alla scuola tanta gente, otto e venti, prima campana e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale, le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Eccolo qui, lui è riconoscibilissimo, Antonello Venditti, con compagno di scuola, Giovanni. Sì, Stefano, non prima ho c'era ben chiare, ma la butto là. Sì, vai. La revoca del ticket per l'ingresso nel centro di Milano, sì. Che sembra dettata principalmente dalla lesiva interesse del mega parcheggio Mediolanum parcheggi. Così è. Grazie Giovanni, buona domenica. Non posso anche dirti niente, come sai. Ok, la soluzione al 24esimo minuto. Sto sorridendo per un messaggio. Dice: avete fatto venire voglia di viaggiare. Non perché non me lo possa permettere, nella media mondiale dei poveri crisi sono nella fascia alta, ma scelgo la crociera da mozzo. Però vabbè, comunque sempre un modo per cercare di viaggiare. Giampiero dalla provincia di Varese. Sì, ciao. Ciao Giampiero, buongiorno a te. Siamo a 500 euro. Ma io provo a dare la soluzione. Sì. Allora, proprio questa settimana è stata, per così dire, presentata la copertina dei giochi del calcio FIFA 13. Sì. E praticamente insieme a Messi c'è anche Claudio Marchisio. quindi prendevo spunto dal primo indizio, Claudio Baglioni, Claudio Marchisi. Certo, poi, il nome. I compagni di scuola, le figurine, le partite di calcio, mi sembra. Però ci sta. Non posso dire nulla. Grazie Giampiero, buona domenica. Okay. Ciao, ciao. Allora, poi mi segnalavano anche l'idea che nasce da fine degli anni Ottanta da Stanislao Nievo, quella dei parchi letterari, che sono i luoghi che hanno ispirato i grandi romanzi. Quindi è un modo per unire viaggi e letteratura. C'è anche un sito su internet per averne l'elenco, che è parchiletterari.com. Grazie per la segnalazione, Stefano. Allora, andiamo avanti con Michele della provincia di Brescia. Michele. Sì? Eccoci. Pronto? Qua. Che è la tua moglie che ti diceva tocca a te. No, c'era qualcuno che ti ha detto tocca a te. Michele. Ciao, ascolti, posso ascoltare un altro indizio? Come no? Ecco, siamo già pronti, guarda. Terzo indizio per 300 euro. Eccoci qua, allora Michele, avrai riconosciuto sicuramente questa canzone. Sì, Yabba. Eh sì, l'avrei anche ballata, immagino, un pochino. Ci siamo scatenati in macchina. Avete fatto bene. Allora, ma tipo siete in coda o state viaggiando serenamente? Stiamo viaggiando serenamente. Ah, meno male. Allora Michele, questo non è gli Yabba di Mamma Mia, quindi sì. Abbiamo aggiunto un pezzetto. Guarda, io mi butto, dico... Non un atleta in particolare, però quelle atlete che sono madri, veterane, partecipano alle Olimpiadi. Grazie Michele, buona giornata, buona Grazie domenica, ciao. Ciao. Sandro dalla provincia di Milano, Sandro. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a te. Io avevo pensato ugualmente alle Olimpiadi, ma come manifestazione che vorrebbe dare agli azzurri qualche medaglia in più, quindi di più. Compagni di scuola, sì. Ma anche di giochi e mamma, e mamma mia accidenti, accidenti. Scusa, sorrido perché speriamo di far così anche questa sera, va? Più tardi, verso le 9. Crociamo tutto. Infatti, di dire mamma mia, sperando. Vabbè, non diciamo nient'altro. Grazie Sandro, non posso aggiungere nulla, grazie a te. 800 24 00 24, siamo ancora a... No, siamo a 300 euro, siamo a metà del nostro percorso, tra indizi scoperti ce ne sono molti altri per voi, ma adesso, prima di Maria dalla provincia di Milano, gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Maria, eccoci qua dalla provincia di Milano. Pronto? Ciao Maria. Sì, buongiorno. Allora, tre indizi li abbiamo scoperti, vuoi qualche altro indizio? Ma così no, scendiamo. No, più andiamo avanti con gli indizi, più sono confusa. No, e questo è sbagliato, dovrebbe essere il contrario. Aspetta, che allora sentiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Più di tanto, più di tutto, più. Compagno di scuola, compagno per niente. Un po' di più, Claudio Baglioni, compagno di scuola, Antonello Venditti, mamma mia, Yabba. Questi sono i tre indizi che abbiamo scoperto. Maria. Allora, io sono confusa. scusa, all'inizio mi sembrava di aver capito, ma no, io dico quello che ho pensato da subito. Sì. Dovrebbe essere l'importanza del lavoro nella vita dell'uomo e l'Ilva di Taranto. Questo ho pensato fin da subito, poi non sono più riuscita La questione dell'Ilva di Taranto, va bene, esatto, questa è una risposta. Grazie Maria, buona giornata, ciao, grazie. Certo che gli indizi non è che si riescano a incastrare così bene con questa risposta, purtroppo. Mario da Genova. Pronto? Mario? Mario, sento che respira però, eh? Luca da Padova. Ciao. Ciao Luca, buongiorno, buona domenica. Ciao, allora, Luca. Grazie. Cosa succede? Cosa vogliamo fare? Ma io chiederei un altro indizio. Eccolo là, siamo a 200 euro. Gioca, gioca, bel bambino, che il tuo babbo ti ha comprato un computerino. E qui dentro quel che serve puoi trovare. Schiaccia un tasto se vuoi vedere il mare. Ai miei tempi c'era scuola, libri, gomme e matite colorate, la cartella che pesava sulla schiena, mi ricordo le mamme disperate, ma tu puoi non uscire, il tuo maestro lo puoi vedere. Nessuno, e potrete fare a meno di pensare, ma ci pensi, che gioia non parlare. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Che belli, bossa nova di Fabio Concato. Questo era Computerino, Luca. Computerino. Sì. Mm. Se metti insieme gli ultimi due indizi, secondo me diventa facile. Computerino e... Non te lo dico. Non posso dirtelo. E mamma mia. Eccola là. Stai scartabellando? Secondo me chi ha la rete, chi ha internet adesso. Mm. Pronto? Eccomi, eccomi. Ecco, scusa, non sentivo più. Io sentivo solo un gran caos. Allora, Luca, quale potrebbe essere la risposta? Non ho idea. Questo computerino mi ha... Ti ha spiazzato? Esatto. Luca, cosa ti devo dire? Alla prossima, cosa devo fare? Grazie. Andrai in vacanza o resterai da quelle parti? Andrai in vacanza. Dove? Val d'Aosta. Ah, vabbè, insomma, quindi ti sposti da un po' le colline e il lago del Padovano per andare in Val d'Aosta. Grazie Luca, buona domenica in montagna. Ciao. Donatella da Teramo. Salve, buongiorno a tutti. Ciao Donatella. Allora, sì, dall'Abruzzo cosa, che risposta ci arriva? Ma guardi, io ho pensato che il personaggio che più di tutto, e mamma mia, mi è venuto in mente la super mamma inglese, la regina Elisabetta, che ha imperversato su tutti i TG, tutte le televisioni a tutte le ore. Non so, pensato a lei. Si è anche buttata dall'elicottero, cosa vuoi di più? Di lei. Per l'apertura delle Olimpiadi. Sì, va bene, sì. Donatella, grazie. Una super nonna, direi anche. Sì, mamma, perché non ha certo, è sempre il figlio piccolo. No, no, no, assolutamente sì, hai ragione. Dico, adesso è anche super nonna, in questo senso lo dicevo. Grazie, Donatella, buona domenica. Torniamo a Milano, Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ciao Claudio. Io ho pensato fin dal primo indizio. Aspetta, quindi tu non ascolti nessun nuovo indizio? No. Allora sentiamo i quattro indizi che abbiamo scoperto fino adesso. Più di tanto, più di tutto, più. Compagno di scuola, compagno per niente. Babbo ti ha comprato un computerino. Un po' di più, Tadeo Baglioni, compagno di viaggio, Antonello Venditti, mamma mia, gli Abba, computerino, Fabio Concato, Claudio. L'aumento delle tasse universitarie per il fuori corso. Così meno restano in corso, no? Grazie. Grazie Claudio, buona domenica. Buona domenica. Tra l'altro, proprio mentre Claudio dava questa risposta, contemporaneamente è arrivato un SMS esattamente con la stessa risposta. Morena da Modena. Ciao. Avevo in mente esattamente la stessa risposta. Guarda, allora esattamente ti dico che non è la risposta giusta. Facciamo così siamo a posto. Morena, non è la risposta giusta. Niente, alla prossima allora. Puoi chiedere un altro indizio se vuoi. Sì, dai, un altro indizio, ok. Andiamo a 100 euro. Benissimo. Sweetie, I know there someone who sets me aglow there, gives me the sweetest hello there. Pennsylvania 65,000. We don't say how are you, and very seldom ask what's new. Instead we start at and each call with baby confidentially I love you. Maybe it sounds a bit away from my money. Here's what I do with my money. Pennsylvania 65,000. Questa è la versione di Mina di un vecchio successo che è Pennsylvania 65,000. Morena, allora, sì. Se tu metti su internet le tre parole chiave degli ultimi tre indizi, viene fuori la risposta. Sono in viaggio, non riesco. Alla prossima. Ciao Morena. Ciao. Ma che rabbia, non è possibile. Ciao Morena, quindi è finito anche il tempo, tutto. Allora, io ho proprio messo sul computer, l'ho fatto adesso, Pennsylvania, mamma computer, che erano gli ultimi tre indizi, e viene fuori esattamente questo. Allora, la notizia che una mamma hacker, cosa ha fatto? Una mamma della Pennsylvania, ovviamente, ecco perché Pennsylvania, ha pensato bene di alzare i voti dei figli, perché dice, li ho fatti sembrare dei geni, anche se il genio più che altro era lei, visto che è riuscita ad hackerare i computer della scuola. E pensate che per questa azione rischia 42 anni di carcere e $90,000 di multa, per cui devo dire che il rischio è veramente elevato. Un po' di più perché tendeva a dare i voti più alti ai figli, compagno di scuola perché alzava appunto i voti scolastici, Mamma Mia perché di una mamma si tratta, Computerino perché è una mamma che usava il computer per aumentare appunto i voti, e Pennsylvania perché la mamma era della Pennsylvania. Mi dispiace, niente di fatto neanche questa volta, e mi spiace molto anche perché succede che nella versione estiva del Riposo del Guerriero, che partirà domenica prossima, non ci sarà il gioco, per cui andremo poi a settembre. Grazie come sempre a Giorgio De Luca in redazione, in assistenza, grazie alla regia di Filippo Aureggi, a tutti voi buona settimana, ci sentiamo domenica prossima alle 10. Ciao da Stefano Gallarini.